Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano. Africa, Africa, won't you be free? 87.9 e la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico. As I know your system is a block against my people. Insieme fino alle 18. E vi ricordo che Radio Onda Rossa non fa pubblicità e quindi se volete sostenere questa radio libera nell'etere senza padroni né padrini, il conto corrente postale è il 6180 4001 intestato alla cooperativa Laboratorio 2001 Viale Volci 56 Roma. Trasmissione di oggi dedicata al Mali, alle sue sonorità, ma anche un qualche aggiornamento rispetto alla situazione preelettorale, elezioni controverse che si terranno domani, e quindi insomma leggeremo qualche articolo a proposito appunto della situazione e anche il punto di vista di un giornalista senegalese, Boubacar Diop. Africa wants to be free, like a lion in the jungle. Africa want to be free, like a bird in the sky. If you don't know, if you don't, you got to know. Oh, oh. Mama, Africa is not free. Oh, free. Oh, free. Mama, Africa want to be free. Africa, Africa, Africa want to be free. Mama, Africa. Africa, won't you be free? Oh, Africa, Africa, Africa, won't you be free? Mama, Africa, Africa, won't you be free? When I am talking about freedom, I am talking about economical freedom. When I am talking about freedom, I am talking about political freedom. If you don't know, if you don't, you got to know. Oh, oh. Mama, Africa is not free. Oh, free. Oh, free. Mama, Africa wants to be free. Allora cominciamo con le nostre selezioni. Lei è Ramata Diakité e il brano si chiama Na, un brano dedicato alla madre. Allô? Na, kasi manine. na mirila ne tora mirila hami jula ne tora hamina ne woloba kele sara dunia mo woloba mere bi sa dunia aba wolode ntivolo Diakité in questo Na e ancora dal Mali, lui è Moussa Diallo. Moussa Diallo è un bassista, un compositore, è un narratore, narra storie, lui ha lavorato molto per esempio con i bambini. Moussa Diallo in questo Manindà. Maninda, don't get it down now, Maninda. Let the door where it died. Maninda, don't get it down now, Maninda. Let the door where it died. Gonna kill ya, kill it, kill it, die. Challenge and kill it, gorra chain and kill it, taro, sorry. Ayola, me, I'm dissimilar. Jalani fila kora cheni fila taro sorge ayola mina abisi mila mone maninda dongili da la maninda nete do wera da de maninda dongili da la maninda nete do wera da de kono ni saba yuki li saba da jalani saba kora cheni saba taro sorge ayola mina abisi mila kono ni nani yuki li nani da jalani nani kora cheni nani ta Bone manida, don't give it that no manida, let the door where it died. Manida, don't give it that no manida, let the door where it died. Moussa Diallo in questo brano Manindà, in cui appunto si sente anche la cora. 16:53, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa, e quindi il Mali e la cora inevitabilmente ci viene in mente. Toumani Diabaté, che è un vero e proprio maestro di questo strumento, dall'album insieme alla sua Symmetric Orchestra, il brano Single. Hello, Toumani, message for Toumani, it's Nick calling from London. Yeah. Tumani Diabaté, questa e Cascatelle di Cora sono veramente emozionanti. Tumani Diabaté con i suoi Symmetric Orchestra, il primo album che loro hanno registrato al di fuori del Mali, questo Boulevard dell'Independence. Si trovavano tutti i giovedì sera in un locale di Bamako, dove appunto arrivavano anche artisti da altre parti dell'Africa per suonare tutti insieme, un gruppo che rappresenta in minore quello che è stato un tempo l'impero Mande. E allora da Tumani Diabaté a un altro Diabaté, questa volta Abdoulaye, che anche lui è un grande prosecutore della tradizione Mande ed è un parente di Kassem Madi, altro chitarrista famoso soprattutto appunto in Africa occidentale. Ha cominciato a suonare all'età di 18 anni. E allora ce lo ascoltiamo in questo brano Balani, è un brano che appunto è un crescendo. Thank you. Abdoulaye Diabaté, senza fiato questo finale di questo suo Balani. E allora, sempre Radio Africa e sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, e vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50. Basse Q, Kouyaté, il suo Ngoni Ba. Basse Q è uno dei maestri del Ngoni, un vecchio liuto che veniva tradizionale, che viene suonato in Africa occidentale. E Basse Q, Kouyaté, Kouyaté ha suonato sempre con Toumani Diabaté, ma anche con Ali Farka Touré, e poi ha avuto un certo successo soprattutto con quei lavori che lo hanno visto emergere come uno dei rappresentanti più interessanti e virtuosi della musica tradizionale maliana, ma non solo tradizionale, perché lui usa lo strumento tradizionale che è appunto il Ngoni, ma riesce a rielaborarlo in chiave moderne. Allora, Basse Q, Kouyaté, ce lo ascoltiamo in questo Turin. Turin turin turi, fanga debi turin turi, kajigizo. Se coro masake, fanga debi turin turi, kajigizo. Obi turin kana, fanga debi turin turi, kajigizo. Se coro masake fanga debi turin turi gajigiso. Thank you. Basseku Kugiatti, il suo Ngoni, questo brano Turin Turin. E il Mali è un grande paese multietnico e al nord ci sono i Tuareg che appartengono anche loro a questa realtà del Mali. È uno dei gruppi più rappresentativi dei Tuareg che sono sicuramente i Tinariwen. I Tinariwen, che in Tamashek è il plurale di deserti, ed è un gruppo che nasce proprio a Tessalit nel nord est del Mali, e la gran parte di loro sono musicisti che hanno cominciato a suonare nei campi nei quali il colonnello Gheddafi addestrava i combattenti del movimento di liberazione Tuareg, e non solo il movimento di liberazione Tuareg. E hanno lasciato il Kalashnikov e hanno preso in mano le chitarre elettriche, con diciamo risultati sicuramente più gratificanti. Allora, Tinariwen, ce li ascoltiamo dal vivo proprio al Festival del Deserto. Questo brano è Aldashan Mani. A dispetto di quello che sta succedendo e di quello che oltretutto vogliono molti, è una comunità, un'entità multietnica in cui appunto convivono culture diverse ma anche culture musicali estremamente diverse, e lì in Mali probabilmente ci sono anche le radici del blues. E sicuramente uno degli autori, dei musicisti che più ha rappresentato, diciamo così, queste radici è Ali Farka Touré. Ali Farka Touré è morto nel 2006 dopo una bellissima vita, una grandiosa carriera. Lui si era trasferito a Niafunké dopo in cittadina nel villaggio del quale poi divenne sindaco una volta che decise di smettere di suonare. Il suo soprannome Farka significa asino, che è un animale ammirato per la sua tenacia, e fu scoperto, come spesso accade con gli artisti africani, da diciamo musicisti occidentali, Ray Cooder nello specifico, però diciamo che Ali Farka Touré era già notissimo in Mali. E allora ascoltiamo il suo blues in questo brano che si chiama Penda Yaro. Ali Farka Touré, 17:19 all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico, questa è Radio Africa. E in Mali si può incontrare appunto la tradizione che, ma anche la modernità, e sicuramente un esempio è quello di Issa Baga Yogo. Lui suona il kamelengoni, che è uno strumento che assomiglia vagamente alla cora, ma non è esattamente la cora, ed è uno strumento che veniva suonato anche qui dai i cacciatori. E allora il kamelengoni, che però Baga Yogo è riuscito, quando è arrivato nel 1991 a Bamako, riuscito a mettere insieme alla musica elettronica, a delle sonorità che richiamano più alla dance, diciamo così, occidentale, e il risultato è stato decisamente interessante. L'album si chiama Sia, e il brano di Arabi, e lui è Issa Baga Yogo. Lei è Mamou Sidibé, una bellissima voce in questo album Nakan, che vuol dire destino, e Nakan è il brano che ci stiamo ascoltando, Mamou Sidibé. Album di Salif Keita, Talé, il brano è Yalla. Ancora una volta Salif Keita, insomma, riesce a trovare questa sintesi fra la musica tradizionale e la modernità, un album in cui c'è Roots Manuva, Bobby McFerrin, Esperanza Spalding e naturalmente la bellissima voce di Salif. Que la kadi geribula dema kumansera malikadi malikadi fasedon dema kumansera boxeur sur le ring, jusqu'au chaos, je représenterai toujours pour bas ma cause. Il trempait dans la sauce marfée, et le Mali sur un trône. J'ai plus de cousins et de cousines que de taxis jaunes. Mes deux pieds sur la pirogue et je traverse le fleuve Niger. E siamo arrivati alle 17:33. Accroché à l'espoir, on se regroupe tous dans les mêmes grains. La journée ou le soir. Ultima parte di Radio Africa, generalmente dedicata agli approfondimenti, e questo sabato appunto parleremo un po' delle elezioni in Mali che si terranno domani. Elezioni controverse che si svolgono in una situazione di vera e propria guerra dopo l'intervento francese, elezioni che sono state richieste a gran voce soprattutto da Hollande anche per dare una legittimità al suo intervento. Ma vediamo un po' quali sono i commenti, anche la situazione che si vive a Mali, in Mali, prendendo un articolo di Jean-Christophe Riguidel da una rivista che si chiama Mediapart. E i maliani non capiscono bene la decisione di fissare queste elezioni in pieno Ramadan e durante la stagione delle piogge, ma quello che li disturba di più è la situazione a Kidal, la città del nord, dove l'esercito maliano fatica a dispiegarsi a causa dello strapotere delle forze del Movimento Nazionale di Liberazione dell'Azawad. E c'è stato un accordo fra il governo del Mali e l'MNLA per quanto riguarda Kidal, un accordo che dovrebbe consentire, diciamo così, le elezioni, e un accordo che però in questo momento, almeno fino all'altro ieri, appariva disatteso perché le tensioni sono ancora molto forti. Il governatore di Kidal non può neanche tornare in città, si è rifugiato presso le truppe francesi, quindi insomma ci sono delle difficoltà a organizzare le elezioni a Kidal. E questo risentimento è reso ancora più forte dal fatto che molti maliani accusano Parigi di sostenere le rivendicazioni indipendentiste dei Tuareg. I francesi pensano che il nord appartenga ai Tuareg, ma non è vero, perfino Kidal sono una minoranza. E questi sono i commenti che fa la gente, nello specifico un professore di sociologia di Bamako, Nafet Keita, che ha vissuto a lungo nel nord del paese. La Francia ha sempre giocato la carta dell'MNLA, fa affidamento sui Tuareg per contrastare l'estremismo islamico nel nord del Mali e per ottenere la liberazione dei suoi cittadini rapiti, ma per il momento Parigi non ha ottenuto nulla. I francesi si sbagliano se pensano che il movimento Tuareg possa aiutarli. E questo punto di vista di un cittadino qualsiasi, insomma, è anche condiviso. Probabilmente l'MNLA è stata la piattaforma con cui appunto su cui i francesi contavano per ottenere il controllo del ricco nord del Mali. Voici les élections, vas-y à fouille, exprime ton opinion. Vote mon pote, voici les élections, vas-y à fouille, exprime ton opinion. Un peuple invite une fois, encore une fois, pour le même combat. Face à face pour la masse, voter est le vrai débat. Sceptique effectivement, mais totalement décidé. Jeune c'est ça, mais j'exprime quand même mes idées. Malien à 18 ans, oui tu es responsable. Vote mon pote, je sais que tu en es capable. Mets-toi en remune de ta carte d'électeur. Hey yo, vote mon pote, pour un lendemain meilleur. rentre dans l'isoloir afin que personne puisse te voir. Élu le candidat en lequel tu places le plus d'espoir. E la situazione è complicata perché Kébile Dramé, l'ex ministro degli esteri, ha ritirato la sua candidatura alle elezioni 10 giorni prima del voto e aveva chiesto di rinviare le elezioni perché non ci sono le condizioni per votare in tutto il territorio nazionale. E c'è un problema anche dei profughi, che sono più di 175.000, che sono sparsi nei paesi vicino, e si è occupato di questo anche un'organizzazione che si chiama International Crisis Group, che si è preoccupata per lo scrutinio, tant'è che appunto si sono preoccupati. Uno dei suoi rappresentanti, Gilles Yabi, afferma che non vogliamo dire che non sia urgente organizzare le elezioni presidenziali, ma pensiamo che non sia possibile soddisfare tutte le condizioni necessarie allo svolgimento di elezioni credibili. Non c'è abbastanza tempo per distribuire le carte di identità su tutto il territorio nazionale e c'è un problema specifico nella regione di Kidal, dove le liste elettorali dovrebbero essere compilate in meno di 2 settimane. Non bisogna accontentarsi di organizzare delle elezioni progettate male quando si afferma di voler promuovere la democrazia in Mali, ma questa promozione della democrazia troppo spesso è stata fatta a suon di bombe, come d'altra parte è successo appunto anche in Mali con l'intervento francese. E gli sfollati sono un problema serio, perché gli sfollati non solo non riusciranno a votare e poi naturalmente non pensano ad andare a votare, ma a trovare un tetto. E sembrava scontato fino alla scorsa settimana che le elezioni sarebbero state rinviate, poi invece François Hollande ha telefonato a Diokunda Traoré, il presidente ad interim, per convincerlo della necessità di andare subito al voto. Queste non saranno elezioni maliane, ma semplicemente delle elezioni che si tengono in Mali. Non siamo noi, afferma il professor Keita, a prendere le decisioni, sono i francesi a decidere tutto mettendoci davanti al fatto compiuto. Il presidente francese Hollande l'ha spiegato bene quando ha annunciato che sarà inflessibile sulla data delle elezioni. Manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes. E dietro queste elezioni c'è anche un problema di finanziamenti. Finché non avremo votato non riceveremo i finanziamenti, e questo insomma è il pensiero dominante fra molti cittadini maliani. Molti elettori hanno accettato la spietata equazione niente elezioni, niente soldi, poiché il paese è drammaticamente a corto di fondi e sembra rischioso appunto opporsi al volere di Hollande e degli Stati Uniti. Le possibilità di un rinnovamento della vita politica in conseguenza di queste elezioni sono estremamente limitate. I candidati in lizza alle presidenziali sono 27, ma i grandi favoriti sono i baroni del vecchio regime, provengono tutti dal partito ADEMA, che è il partito che poi da cui sono usciti gli ultimi 3 presidenti del Mali. La campagna elettorale è stata troppo breve perché potessero emergere delle figure nuove, si è passati dallo stato di emergenza ai comizi e di conseguenza i voti confluiranno sulle persone, sulle personalità note. Alla fine del mandato del presidente Touré quasi tutti i partiti di opposizione erano entrati nella maggioranza, e questo è un fenomeno piuttosto noto, ma non solamente in Africa, molto noto in Africa occidentale, molto praticato anche in Senegal, tant'è che viene definito la transumanza. E uno dei candidati più noti è Ibrahim Boubacar Keïta, che è stato il primo ministro ai tempi del presidente Conaré al potere fino al 2002, e poi c'è Soumaila Cissé, ex ministro delle finanze. Sono entrambi sulla scena politica da almeno 20 anni. È anche vero che le elezioni non hanno mai appassionato molto i maliani. Secondo le stime, in generale l'affluenza alle urne è sempre stata intorno al 20%, un tasso molto inferiore anche rispetto a altri paesi come il Senegallo e la Costa d'Avorio. Quindi il nuovo presidente, che sarà eletto con uno scrutinio a cui avrà partecipato appena il 20% degli elettori, avrà un problema di legittimità. È un altro punto che spinge i maliani a chiedersi perché la Francia abbia tanta fretta di andare alle urne. I francesi hanno un obiettivo nascosto: non c'è niente che faccia pensare che gli estremisti islamici siano pronti a scendere fino a Bamako. La Francia è intervenuta nel nord del Mali soprattutto per mettere in sicurezza le sue riserve di uranio nella regione. Era necessario controllare il nord per impedire agli estremisti islamici di danneggiare gli interessi di Areva, l'azienda, una grande azienda francese in Niger. E questo è il commento generale a Bamako. Chi ha criticato l'intervento francese in Mali ha subito minacce e insulti, e gli è stato fatto capire che ci sarebbero state delle conseguenze economiche e politiche per loro e i loro familiari. E allora andiamo ancora avanti con questo articolo, che è un articolo molto, molto interessante, e che parla appunto di coloro che si sono opposti sostanzialmente all'intervento francese. E uno di questi è stata sicuramente Aminata Traoré, che è l'ex ministra della cultura, che nel corso di una trasmissione televisiva ha spiegato di non volere ringraziare la Francia per la missione in Mali. Senza l'intervento francese in Libia il Mali non sarebbe stato destabilizzato. E il riferimento all'intervento in Libia è in qualche maniera legato al fatto che dalla Libia sono arrivati molti combattenti Tuareg pesantemente armati, che dopo la caduta del regime di Gheddafi si sono trasferiti, caso di dirlo, armi e bagagli in Mali. E allora perché, dice Aminata Traoré, dovrei ringraziare la Francia? Quello che sto dichiarando lo dicono anche molti francesi, allora perché non dovrei avere il diritto di denunciarlo? Gli africani non hanno il diritto di esprimersi, devono ringraziare fino all'eternità l'ex colonizzatore, si è chiesta appunto la scrittrice. Aminata Traoré, 66 anni, ha saputo da alcuni diplomatici che la Francia potrebbe anche rifiutargli il visto. Non è ufficiale, ma la minaccia è nell'aria. Da Bamako a Parigi molti considerano questa misura una rappresaglia, un modo di punire la sua libertà di espressione. Ça ne tourne autrement, mon gars. La sincérité, la bonté, il faut pour moi, c'est la vérité. Le rêve de ma vie est devenu incontournable à tous ceux qui aiment la paix, l'union dans leur pays. Mon goti balika gomina, kanato kachine jessam. Mon goti balika gomina, kanato kachine jessam. Mon gota balanga gomina, antafo kachine jessam. Mon gota balanga gomina, antafo kachine jessam. Mon gota balanga gomina, mon gota balanga gomina, antafo kachine jessam. Fasubetu E continua Minata Traoré: non ho niente contro la Francia, osservo semplicemente che tutte le decisioni che ci riguardano vengono prese a Parigi, New York o Abidjan. Quelli che decidono per noi hanno dei piani militari e politici, ma non hanno pensato a un piano economico. L'autrice di La Morsa, un libro che denuncia i fatti, i danni del liberismo economico in Africa, aggiunge: quale modello economico può sostituire quello del narcostato che domina oggi il nord del Mali? Ecco il vero problema: bisognerà pur dare da mangiare alle popolazioni del nord, e di questo Hollande non parla mai. E le parole di Aminata Traoré hanno più presa oggi che all'inizio della crisi. Nelle strade di Bamako cominciano ad apparire i primi graffiti contro il neocolonialismo, le bandiere con il tricolore francese sono più rare rispetto all'inizio dell'intervento militare di Parigi nel gennaio del 2012, e il riferimento di Aminata Traoré al narcostato è un riferimento ben preciso e sta a indicare appunto come nel nord, il nord del Mali fosse da tempo preda di traffici di tutti i tipi. Sembra appunto che siano, che il nord del Mali fosse una dei canali attraverso il quale le mafie colombiane trasportavano appunto droga, armi, esseri umani attraverso appunto il nord del Mali fino in Europa. Donné en aide des richesses, des braves enfants appelés tirailleurs sénégalais à l'autre côté du continent au moment où ça se fait. C'est aujourd'hui que la peau blanche fait la tasse à tes enfants. La peau blanche et la peau noire ont des enfants chez nous en Afrique qui se nomme Médite. Je suis africain et je suis fier de l'être. Fier du sang noir qui coule dans mes veines. Fier de mes cheveux copies et de ma peau noire. Je ne glorifie pas dans l'hypocrisie comme un me faire de l'autre côté du continent. L'elezione del nuovo presidente è l'unica posta in gioco, molti ne dubitano. Il 1 luglio è cominciata ufficialmente la missione delle Nazioni Unite, missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali, così si chiama la MINUSMA, composta da 11.200 soldati e 1.440 poliziotti. Fra i compiti della MINUSMA c'è anche quello di mantenere la situazione sotto controllo durante le elezioni presidenziali del 28 luglio. Le truppe straniere hanno installato il loro quartier generale di fronte alla sede della radio televisione nazionale per dissuadere i golpisti dal tentare un nuovo colpo di Stato, ma la presenza di caschi di blu suscita qualche inquietudine. Quando le Nazioni Unite arrivano da qualche parte non vanno più via. Guardate quello che è successo nella Repubblica Democratica del Congo. Le truppe dell'ONU sono coinvolte in ogni genere di traffici. Là i soldati hanno perfino aperto dei bordelli dove fanno prostituire delle minorenni. Con la guerra infinita prosperano gli avvoltoi. Alle truppe dell'ONU non interessa porre fine a quel conflitto. E questo lo sostiene Aisha, una studentessa universitaria di Bamako, che è preoccupata per il futuro del suo paese, che secondo lei rischia di sparire. In Africa, they live all together. Black and black and white live together. I'm an African, proud to be black. Ma in Mali si combatte, ma si combatte per degli interessi molto concreti, e vediamo un po' quali sono questi tesori per cui si combatte in Mali. Da un articolo del gennaio del 2013 di Céline Camoine, articolo che è apparso sul sito di Atlas. E si parla appunto del Mali, che ha attirato l'attenzione di compagnie internazionali che sono interessate dal suo elevato potenziale in minerali di qualità, in idrocarburi. È il terzo produttore africano di oro. Fra il 2001 e il 2008 sono stati concessi in media 60 permessi di esplorazione l'anno ad aziende straniere nel settore aurifero. E fra le risorse non ancora sfruttate c'è l'uranio, che suscita molto interesse, soprattutto da parte dei francesi. Il più grande giacimento, con stime di 5.000 tonnellate, è stato localizzato a Faleà, nel sud-ovest del paese, e la sua esplorazione è stata affidata alla compagnia canadese Rockgate. Nella regione di Gao, nel nord-est del paese, esiste un giacimento di 200 tonnellate scoperto a Summit dalla compagnia canadese Bayswater Uranium Corporation, che poi ha venduto la sua licenza, che copre un perimetro di 1000 km quadrati, alla Cascade Resource. A Kidal, sempre nel nord-est dell'Adar de Iforas, la compagnia mineraria australiana Oklo Uranium ha identificato un altro giacimento. Ma a interessare gli investitori anche il potenziale di bauxite, di cui si ricava l'alluminio. Nella regione di Falea ne sono state individuate 420 milioni di tonnellate e il Mali potrebbe diventare quindi il primo esportatore di bauxite dell'Africa, superando la Guinea Conakry. E a lavorare sul giacimento è la Central African Mining Exploration Company, multinazionale con sede a Londra. E inoltre recente la scoperta di un gigantesco giacimento di gas a Burakebugu, a 60 km da Bamako e a 45 da Kati. Si tratterebbe al 98% di idrogeno puro, qualcosa di molto raro secondo i dirigenti della Petroma, la compagnia petrolifera maliana con capitali canadesi, che ha annunciato la scoperta a soltanto 107 metri di profondità. Mentre per quanto riguarda gli idrocarburi in generale sono stati individuati 4 bacini con 29 che sono stati divisi in 29 blocchi e i bacini che l'autorità per la ricerca petrolifera nell'area di Timbuktu e sarebbe dotata di un forte potenziale di gas. E fra le aziende coinvolte nell'esplorazione degli idrocarburi c'è il gigante francese Total e l'algerina Sonatrach. Quindi ricchezze, risorse veramente immense nel Mali, che sono attualmente sfruttate da compagnie straniere, da multinazionali canadesi, francesi, anche da algerine, e poi naturalmente questa presenza militare francese che ha come obiettivo quello di mettere le mani e mettere in sicurezza queste enormi risorse. Comme si personne n'a la capacité, on donne tout à personne. Or, on sait que ce gouvernement est fort. Les élèves et les verrants ne seront jamais d'accord. Enfin, étudions quand même, c'est pourquoi nous devons connaître nos droits et revendiquer. Allora 17.55, questa è Radio Africa e siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 il contatto telefonico. E abbiamo letto appunto questo articolo che riguardava le elezioni in Mali, e ancora una manciata di minuti in cui appunto vorremmo farvi conoscere qual è il punto di vista di Boubacar Boris Diop, un intellettuale, uno scrittore senegalese, a proposito del Mali. E infatti ci si chiede se l'intervento militare francese in Mali rientri nello schema della Françafrique, e risponde che certamente la Francia in Mali è nel suo cortile chasse gardé, come lo chiamano loro, il loro cortile di caccia, e a eccezione della Nigeria i paesi impegnati al suo fianco sul terreno fanno parte del suo antico impero coloniale. Ma in fondo siamo piuttosto in una logica di guerra globale. Gli interventi francesi in Africa sono sempre stati fatti con una certa disinvoltura, mentre invece questa volta questo intervento è stato preceduto da vari consigli di guerra all'Eliseo, è stato concepito come un grande spettacolo mediatico, ne hanno parlato i giornali, ma naturalmente in media mainstream, occultando naturalmente, come spesso accade in questi interventi, gli effetti collaterali dell'intervento militare francese, a parte le centinaia di migliaia di profughi, le violenze che sono state perpetrate contro la popolazione del nord del Mali di origine tuareg da parte dei soldati maliani, e naturalmente le vittime civili che ci sono state in questi bombardamenti. E afferma Boubacar Diop che il nord del Mali è stato l'occasione per un presidente considerato troppo morbido e indeciso, Hollande, di darsi a poco prezzo l'immagine di un dirigente volontario e capace di preservare l'onore del suo paese nel mondo. E il contrasto è particolarmente forte se si pensa alla poco gloriosa sortita delle truppe francesi dall'Afghanistan in seguito all'uccisione di un certo numero di soldati francesi da parte dei talebani. Emprise de cet empire, oui, tous les appétits, les abus, les troubles à bout ne viendront jamais à bout d'une Afrique oubliée, délaissée, mais forte car forgée à travers l'histoire par la faim, la souffrance et le fer, et qui sait si bien cicatriser de ses blessures. Voilà mon ami ce que je tenais à te dire. Imanake, choko, choko, imanata, yoro, yoro, imanabo, yoro, yoro, ite foye, adamadengo, imanake, choko, choko, imanata, yoro, yoro, imanabo, yoro, yoro, ite foye, adamadengo. E dice Boubacar Diop che l'obiettivo dichiarato di questa guerra è aiutare il Mali a recuperare la propria integrità territoriale, ma se non ci fosse stata la presa di Conna da parte degli islamisti non sarebbe accaduto nulla. La caduta di Conna è stato il momento in cui Parigi, che non perde mai di vista i propri ostaggi nell'uranio da Areva, si accorge che i suoi interessi economici e la sua posizione nella regione sono gravemente minacciati. E in quel momento gli attori non sono più gli stessi. Questa guerra comincia a essere seguita con attenzione dall'Algeria, dalla Mauritania, dalla Nigeria, da altre potenze occidentali e dal Qatar, questa monarchia del Golfo che in Mali, come in Siria, fa un gioco piuttosto strano. Anche qui a questo punto Diop fa delle riflessioni interessanti e dice che dopo la morte di Gheddafi lo Stato francese ha creduto che fosse arrivato il momento di affidare alla ribellione Tuareg la decisione della guerra, la gestione della guerra contro Al-Qaeda nel Maghreb e il Mujahideen. Parigi e Washington decidono di aiutare i Tuareg presenti in Libia a rientrare pesantemente armati in Mali, ma, dettaglio importante, non in Niger, dove non si vogliono correre i rischi per via dell'uranio di Areva. E questa è una posizione che ultimamente è stata piuttosto veicolata e condivisa, anche perché ci si chiede com'è possibile, considerando la presenza dell'Africom, che sarebbe appunto l'apparato militare strategico di controllo che hanno installato in Africa gli Stati Uniti e naturalmente il controllo francese, come è stato possibile che migliaia di combattenti Tuareg possono essere usciti dalla Libia pesantemente armati e arrivare direttamente in Mali. Quindi questo fa pensare che ci sia stata una intenzionalità da parte di Parigi e di Washington di aiutare i Tuareg presenti in Libia con l'obiettivo appunto di combattere il cosiddetto estremismo islamico, e i Tuareg sono ben contenti di poter concretizzare finalmente il loro sogno di indipendenza attraverso la creazione del nuovo stato dell'Azawad, alleato dell'Occidente. E alcuni media francesi si sono allora incaricati di vendere il progetto di questi uomini blu del deserto che si preparano tranquillamente a entrare in guerra contro il Mali, e basta fare un piccolo viaggio negli archivi di France 24 e di RFI per vedere che l'MNLA è stato ricreato dai servizi di Sarkozy. Insomma, è molto netto Boubacar Diop in queste affermazioni. E questi strateghi sapevano bene che tutto questo si sarebbe presto tradotto nella dissoluzione dello Stato maliano e nella spartizione del suo territorio. E tuttavia ciò non li ha fatti esitare neppure un secondo. E afferma Diop che in tutta questa storia la Francia è senza dubbio nel ruolo del pompiere piromane, tutto lascia credere che si libererà dei jihadisti, ma tutto ciò costerà ai maliani il loro stato e il loro onore. Vorrei aggiungere che l'indipendenza del Mali e la sua relativa omogeneità territoriale è finita per molto tempo. Bisogna essere davvero ingenui per credere che dopo aver faticato tanto per liberare il nord, la Francia rimetterà le chiavi del paese in mano a Diokoundé Traoré e ai suoi compagni maliani e si accontenterà dei saluti da Dio. La Francia si è messa in buona posizione nella corsa alle prodigiose risorse naturali del Sahara ed è difficile immaginare che lascerà cadere la ribellione Tuareg, che resta per lei una carta preziosissima. Un episodio di questa guerra che è passato inosservato merita però una riflessione. La presa di Kidal, prima di tutto la presa, è stata concessa a un MNLA che non ha più alcuna esistenza militare, e qualche giorno più tardi, il 29 gennaio, i soldati francesi sono entrati soli in città, non autorizzando le forze maliane ad accompagnarli. E Diop conclude dicendo che gli indipendentisti Tuareg, dopo la debacle militare, avranno il controllo politico sul nord del paese che non hanno mai avuto. È un formidabile paradosso, ma l'interesse dell'Occidente è di avere uno stato centrale maliano senza presa sulla parte settentrionale del paese. Le pressioni sono cominciate obbligando Diokoundé Traoré a negoziare con i Tuareg moderati usciti dalla manica di Parigi, ed è difficile immaginare che un presidente debole come Diokoundé Traoré possa resistere alle pressioni di Hollande. Che ci piaccia o no, le primavere arabe stanno distaccando definitivamente l'Africa del Nord dal resto del continente, e la nuova frontiera è in qualche modo il nord del Mali, e ciò risponde a un progetto strategico chiaro e coerente dell'Occidente che lo sta ora mettendo in opera. En moyenne par occidental, la dalle pour les enfants du Darfour. E allora 18.05 finisce qui Radio Africa, ma rimanete sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, perché adesso ci sarà Soul Peanuts e il suo jazz fino alle 19.30. Par jour en moyenne par occidental, des milliards de dollars par jour dans la bourse du grand capital, un sac de riz par famille, une fois par semaine des protéines. C'est quand il n'y a pas de famine que l'Afrique mange à se. E quindi con Radio Africa ci si risente a settembre. Jour en moyenne, par occidental, l'hôpital du travail tous les jours. Stiamo lavorando perché Radio Africa abbia altre collaborazioni e sia ancora più presente per quanto riguarda il racconto dei fatti che accadono in Africa. E allora rimanete sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. L'être humain préfère à l'amour un gros tas d'argent sale, et leurs chefs font comme tous les jours, ils grossissent leur capital. 70 litres de flotte par jour en moyenne. Par occidentale, un fossé qui se creuse plus chaque jour. Une nouvelle guerre, un nouvel arsenal. Pour que le ricain reste obèse, que le petit français dorme à l'aise, il faudra bien qu'on allège de leurs biens quelques pays africains. J'passe à 30 litres par jour, je vous promets, j'essaierai de faire mieux. Je regarde ce qui se passe au Darfour, je leur promets un peu plus que de l'amour. Je vais botter le cul des aristos qu'entretiennent trop bien le réseau. Africains comme occidentaux sont les victimes de ces bourreaux. Je passe à 30 litres par jour, je vous promets, j'essaierai de faire mieux. Par chez vous, j'irai faire un tour pour vous comprendre un peu mieux. Entre nous, il y aura de l'amour, pardon et des adieux. Mais pour ça il faudra qu'un jour ensemble on mette dehors ces mafieux. Quelques pays d'Afrique.